Yeah. Goodbye, princess. Cresciuti assieme, migliori amici, progettando il futuro per essere felici. I nostri sogni, i problemi più innocenti, spazzati via dalle complicità di due adolescenti. E per quel desiderio di innamorarmi, c'eri tu ad ascoltarmi, tu a tranquillizzarmi. Tu nei giorni tristi, tu nelle vittorie, la prima ad abbracciarmi, tu in tutte le mie storie. E non capivo cosa stava succedendo, con del mio cuore a mille, l'amore stava crescendo. Cominciai a chiamarti principessa, prima per scherzo, poi la storia stava diventando seria. Non ce l'ho fatta, dannata timidezza, è l'unico segreto di questa amicizia. Poi tutto cambia, si cresce, le strade si dividono. In breve si è catapultati in quel futuro di cui tutti scrivono. Domande senza risposta che non ti fanno andare avanti. Tu la principessa nei miei sogni ricorrenti, dove sei, con chi sei, odio il mio destino che mi ha privato della mia principessa da bambino. Yeah, a goodbye princess. Oh, oh, yeah. Oh, oh. Un giorno come un altro è così che inizia. Apro Facebook e ci trovo una richiesta d'amicizia. Il tuo nome e quel sorriso in quel profilo mi ricorda quando t'ho conosciuto il primo giorno all'asilo. Ciao, come stai principessa? Vedo che tifi Inter, ascolti pop, buona la premessa. Pensa alla coincidenza, ritrovarti adesso dopo che ne t'ho cercato. È solo che ogni strada è andata persa. Dimmi di te, quelle foto sulla pelle, quelle scritte disegnano vittorie più sconfitte. Sono pari, i ricordi lasciano dei segni, come i sogni devo intrappolarli nei disegni. Vivo fuori orario, niente firme sui fogli, zero sogni, non credo di legarmi ancora. Ma ora c'è una cosa che temo ed è chiederti perché hai tirato un freno con me. Sono scappato da chi mi spaventava, una principessa era troppo per uno che balbettava. Scemo, vorrei sapere che ti ho fatto, dopo tutto se non sbaglio ci stringevo un patto. Hai mai avuto un sogno così reale da sembrare vero? Tu eri quel sogno a cui non credevo, come non desiderarti. Ma tu eri quel sogno a cui non credevo. Non desiderarti, come non desiderarti. Ho perso l'attimo, forse ti desidero, perché sei di un altro. Fossi mia probabilmente, vorrei un'altra. In fondo siamo masochisti cronici, esploriamo sentimenti come terroristi islamici, fino al tradimento. Un momento, non penso che ci uccida un sentimento. Non desidero che vivere e non ridere, ma un ricordo, un fuoco che non spengo. Parlo così perché ci sono già passato. La mia ex mi amava mentre desiderava il suo passato. È peccato non desiderarti, ho un carattere difficile, non riuscirei ad amarti. Io non penso, amare fa capire persino che se c'è un confine non si può carpire il destino. Amare fa reagire, amare fa reagire, carpire il destino. Può darsi se la notte la passi tra le braccia di Morfeo in un bunker, ma io la passo tra gli artigli di Freddy Krueger. Quelli come me sono tra gli artigli di Freddy Krueger. Yeah, goodbye princess. Non desiderarti, come non desiderarti.